Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, benvenuti, grazie per aver scelto di essere in nostra compagnia. Oggi, amici, parliamo di pipì, che dite? La facciamo più volte al giorno e non c'è nulla di più apparentemente naturale, di più semplice, che assecondare quello stimolo che parte da lontano, dal cervello per la precisione, che ci spinge a raggiungere un bagno in tempi più o meno rapidi. Ma c'è chi preferisce il ciglio della strada, il tronco di un albero, i muri. Questa settimana parliamo di pipì. Partiamo subito così, no. In salita. No, perché è successo questo? Il sindaco di Parigi, sì, per ovviare all'annoso problema, sì, dei maschi parigini che fanno la pipì contro i muri della città. Ma dai. Eh sì, ha fatto piazzare dei dispositivi anti-pipì, che sarebbero praticamente dei pannelli ondulati che se tu ci fai la pipì sopra, chiung, ti rimbalza, ti ritorna indietro, veramente. Ma dai. Sì, ti ritorna a raggiera moltiplicando il getto, a schiaffo, tu la fai, schiap! Quello è il classico, chi la fa l'aspetti. Insomma, è magnifica Luciana Littizzetto, ma noi dai muri di Parigi torniamo in studio perché oggi non parliamo dei posti in cui non è conveniente fare pipì, ma essere benessere vogliamo capire se come la pipì, l'urina, può essere un indicatore della nostra salute. Il medico di base, il medico di famiglia, accanto agli esami del sangue, prescrive spesso anche quelli delle urine. Basta metterne in un apposito flaconcino e si portano in laboratorio, no? Un servizio tra l'altro che fanno anche molte farmacie. Allora, prima cerchiamo di capire qualcosa di più di questo tipo di analisi e poi cerchiamo di capire come si raccoglie in modo corretto l'urina che sarà poi esaminata. In linea con noi abbiamo il dottor Carlo Gargiulo, buongiorno, medico di famiglia, bentornato. Buongiorno Nicoletta, ben trovata e un saluto a tutti gli ascoltatori. Dottore, che cosa può dire ad un medico l'esame delle urine? Cosa dice di più e di diverso ad esempio dagli esami del sangue? Ma sicuramente è un esame prezioso che dice intanto come funziona il rene. Il rene, l'apparato urinario, è fondamentale per poter purificare e depurare il nostro organismo e quindi già dai costituenti che sono presenti nelle urine noi possiamo sapere quanto questo rene funziona, cominciando dal peso specifico, quindi da come, quanto è densa l'urina, dal colore, dall'aspetto, se limpido o torbido, e poi mano a mano scendendo nel dettaglio dei vari costituenti, la creatinina ad esempio all'interno delle urine, ancora l'urea e ancora se possiamo, se troviamo tracce di glucosio, se troviamo tracce di sostanze che non dovrebbero essere presenti. Insomma, è un esame che a 360 gradi ci dà molte indicazioni sulla situazione generale del nostro organismo. Dottore, parliamo però della raccolta delle urine. Ci dia qualche indicazione proprio semplice e chiara per prepararci all'esame? Sì, allora, bisogna fare pipì. Ecco. Intanto raccontiamo subito magari un aneddoto che era quello di quando, ormai forse è diventato proprio un aneddoto dei vecchi tempi, di quando si raccoglievano le urine in qualsiasi tipo di contenitore, vedevamo campioni raccolti all'interno di bottigliette di succhi di frutta o piuttosto che cartoni, piuttosto che qualunque altra possibilità per mettere queste urine. In realtà per fare un corretto esame delle urine bisogna che non siano contaminate, che non ci sia nulla che possa confondere le idee. E quindi va preso un flaconcino in farmacia, il barattolino sterile, anche sì, se non dobbiamo fare un'urinocultura, è meglio che il barattolino sia sterile, che garantisce la sua pulizia, e le urine vanno raccolte buttando via il primo getto, quindi si deve andare in bagno, iniziare la minzione, quindi iniziare ad urinare, il primo getto va buttato via e si raccoglie il secondo getto, perché il secondo getto è quello presente in vescica, quindi porta l'urina che sta direttamente in vescica. Questo va fatto al mattino con le prime urine del mattino, che sono quelle che sono più concentrate, quindi ci danno informazioni migliori e eventualmente evitando di bere prima di raccogliere queste urine, perché chiaramente si potrebbe, sì, avere una diluizione. Dottore, però lei lo sa bene che ognuno è medico di se stesso e quindi le chiederei di dirci a quali segnali dobbiamo prestare attenzione quando facciamo pipì. Io ad esempio inizierei dal colore, ma è lei il dottor, mi dica. Esatto, no, ma lei ormai è più esperta di me. Sì, il colore delle urine è importantissimo, però ecco, qui bisogna raccomandare ai nostri amici ascoltatori di non spaventarsi se il colore delle urine cambia, perché ad esempio basta una goccia di sangue in vescica per dare alle urine già un colore rossastro, che di solito spaventa molto, ma che non è detto che sia una manifestazione di una patologia severa, basta una banale cistite, un'infiammazione a livello vescicale per dare questo colore. Però se noi vediamo una variazione del colore delle urine, un esame delle urine è bene farlo. Lei raccomandava prima anche la farmacia, benissimo, raccogliamo il nostro campione e anche lo stesso farmacista potrà farci fare questa analisi di base, un'analisi iniziale che ci dà già alcune evidenze su cui appoggiarci. Un'altra cosa a cui bisogna tenere presente è l'odore delle urine. Quando l'odore cambia, un odore diventa penetrante, fastidioso, diciamo anche un cattivo odore, bisogna stare attenti perché facilmente c'è un'infezione urinaria su cui bisogna controllare, su cui bisogna intervenire. E allora, dottor Gargiulo, passiamo al numero. La quantità delle menzioni è un indicatore di buona salute? In altri termini, se faccio tanta pipì vuol dire che il mio apparato funziona bene, sono ben idratato, elimino tutto quello che non mi serve? Ma diciamo che anche qui c'è un luogo comune, un vecchio detto, credo veneto, che diceva l'om sanel pisa come un can. In realtà non è giusto e non è correttissimo, perché quando la menzione diventa troppo frequente, ma soprattutto quando diventa impellente, per cui è difficile riuscire a tenere, allora a quel punto significa che qualche cosa non sta funzionando. Ancora ricordiamoci che una menzione troppo frequente, anche se abbondante, associata con una sete intensa, può essere un segno di un diabete e quindi è un segno che va spiegato e raccontato al medico. Infine la menzione notturna, se di notte abbiamo ci svegliamo perché dobbiamo andare ad urinare e se questo addirittura succede più volte durante la notte, in un maschio è segno sicuramente di una prostata che non funziona, in una donna potrebbe essere segno di un prolasso, uterino. L'utero scende verso il basso, preme sulla vescica e questa vescica contiene meno, quindi abbiamo più spesso lo stimolo per urinare. Quindi attenzione alle pipì notturne, ma io voglio salutare il dottor Marco Temporin, medico nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva presso il CMSR Veneto Medica di Altavilla Vicentina. Buongiorno dottor Temporin. Buongiorno Nicoletta. Lei lo sapeva quel proverbio veneto che ha citato il dottor Carlo Gargiulo? Niente di più vero, mi piaceva tantissimo. Lei potrebbe dircelo con la cadenza veneta. Sì, effettivamente potrei provarci, ma non ho proprio la cadenza molto veneta io. Senta, dottor Temporin, ci sono delle erbe che sotto forma di tisane possono aiutare il nostro apparato urinario a depurarsi, a funzionare bene, rimedi fitoterapici? Sì, allora ho pensato a un infuso che potrebbe essere utile proprio come azione di aiuto per l'apparato urinario, con dei rimedi molto semplici che ognuno di noi poi può fare a casa propria. Sì. E adesso do proprio la ricettina con questi piccoli rimedi. Va bene, noi siamo pronti e andiamo. Allora, prima di tutto i piccioli di ciliegia, quindi quelli non vanno mai buttati via perché hanno un ottimo effetto diuretico. Sì. Poi gli stigmi di mais, la betulla in foglia e la gramigna radice e la pilosella. Una tisanona ricca, eh? Una tisanona ricca, sì, sono 5 rimedi che agiscono sia come azione drenante, quindi migliorano per quei soggetti che hanno una tendenza ovviamente fisiologica alla ritenzione idrica, però hanno anche un effetto, grazie poi alla betulla e quant'altro, anche a questo effetto uricosurico, quindi elimina quei sali di troppo che il nostro organismo tende a trattenere. Invece nell'ambito fitoterapico, se c'è bisogno di un aiuto come disinfettante, io consiglio sempre il mirtillo rosso. Sì. Il mirtillo rosso, che in latino viene chiamato Vaccinum Vitis Idea e non il Vaccinum Mirtillus, che è il mirtillo nero, il quale, secondo Paul Henry, che è il padre della gemmoterapia, il mirtillo rosso aiuta a migliorare proprio il dismicrobismo delle vie urinarie. Quindi cosa vuol dire? Che non tiene lontane le infiammazioni? Tiene lontane le infiammazioni, ma soprattutto anche per quei soggetti che hanno la tendenza facilmente a fare piccole cistiti, magari da Escherichia coli e quant'altro, l'aiuto che si può avere con il mirtillo, prendendone alcune gocce tutti i giorni per un periodo di 2-3 mesi, può migliorare la situazione appunto infiammatoria delle vie urinarie e procrastinare eventualmente le eventuali infezioni. Dottor Gargiulo, abbiamo parlato di rimedi fitoterapici che aiutano a depurarci, io però vorrei che lei mi facesse un commento sull'abitudine. Devo dire che è più femminile, almeno sembra così, di prendere diuretici, magari così anche senza che ce li prescriva direttamente il medico, perché si pensa che, dato che questi farmaci fanno fare la pipì, ci aiutino in qualche modo. qualche modo a perdere peso. Ecco, il rischio è molto alto, amiche, per cui io conosco delle situazioni serie, gravi, per cui mi dispiace, io puntualmente poi torno dalla leggerezza, poi lo so che sono incalzante, però io sono fatta così, a me interessa un pochino la vostra salute, non voletemene. Dottor Carlo Gargiulo, insomma è un difetto questo, però insomma, Diciamo subito che l'uso dei diuretici non è consigliabile se non sono prescritti dal medico in situazioni particolari e in condizioni particolari. Certo. Una per tutte è l'ipertensione, dove il diuretico trova una sua logica ma è inserito in uno schema terapeutico importante. L'uso del diuretico per drenare, come si dice, o per eliminare liquidi in eccesso è sbagliatissimo, perché in realtà noi eliminiamo una quantità di liquido che serve al nostro organismo, quindi aumentiamo l'acqua all'interno di queste urine, ma non otteniamo dei risultati se contemporaneamente poi non facciamo delle grandi bevute, perché chiaramente dobbiamo recuperare quest'acqua che in maniera artificiale abbiamo spinto fuori dall'organismo. Il rischio grosso qual è? La disidratazione. Ricordiamoci che il nostro corpo per il 70% è fatto di acqua. Se noi buttiamo via dell'acqua, intanto i tessuti più importanti, cioè dove l'acqua è maggiore, come il cervello, dove raggiunge quasi il 90% l'acqua, cominciano a soffrire subito, basta pochissimo per farli soffrire. Quindi utilizzare questi diuretici per dimagrire è la cosa più sbagliata che si possa fare, o per drenare la cellulite, o per questi sistemi che non hanno nessuna logica e non hanno nessun risvolto scientifico che possa giustificarli. Quindi sono d'accordo con lei, serietà assoluta da questo punto di vista, i medicinali si utilizzano solo quando servono e solo su indicazione del medico. Dottor Temporin, lei è anche un nutrizionista, noi abbiamo parlato di erbe, abbiamo parlato di mirtillo, ci racconti cosa possiamo mettere a tavola in questi mesi invernali? Solitamente si beve un po' di meno, però vengono in aiuto le zuppe, i passati, ci sono poi degli alimenti, dei prodotti che sono proprio ricchi, no, di acqua. Sì, allora sicuramente prima di tutto volevo dire mi trovo perfettamente d'accordo con il dottor Gargiulo e voglio dire alle nostre ascoltatrici che dimagrire vuol dire perdere massa grassa e non vuol dire perdere acqua. Molto spesso quando queste pazienti che si rivolgono poi a noi nutrizionisti e facciamo un'analisi nutrizionale sono, come dice appunto il collega, fortemente disidratate ma hanno tutta la loro massa grassa e quindi non sono assolutamente magre ma anzi sono delle grasse disidratate, per cui il perdere peso vuol dire una dieta equilibrata e soprattutto ricca di nutrienti che mantenga un giusto equilibrio tra acqua intra ed extracellulare. Ecco, per quanto riguarda poi gli alimenti in questa stagione, sicuramente tante zuppe, soprattutto zuppe con legumi e cereali, questo è molto importante, anche l'utilizzo di cereali integrali perché sono ricchi di magnesio che insieme al potassio ci garantisce un buon equilibrio elettrolitico proprio a scapito invece del sodio che favorisce la ritenzione idrica. E soprattutto, se posso consigliare un legume che magari è poco conosciuto, la soia rossa, perché la soia rossa aiuta le vie urinarie, per cui può essere cucinata proprio come un legume tradizionale nostro, è gradevole e può essere messa anche nei nostri minestroni classici. Magnifico. Dottor Gargiulo, con il freddo però è più facile avere lo stimolo di fare pipì, è normale, vero? Scappa sì, di più. Un pochino di stimolo in più quando si passa soprattutto dal caldo al freddo, quindi quando si esce magari da un ambiente normale riscaldato e si ha quella sensazione di freddo addosso, o si va in montagna, addirittura anche quando si va a sciare si sente spesso questo fastidio, effettivamente nasce un pochino di più lo stimolo e quindi non dobbiamo preoccuparci assolutamente. Ecco, se siete a Parigi ricordatevi dei muri, di non farla sui muri. Assolutamente. E dottor Gargiulo, a Roma non ci sono queste, non c'è questa abitudine di fare pipì sui... Ma ahimè, purtroppo c'è anche a Roma questa abitudine, è un pochino meno frequente, ma le zone un po' meno frequentate, un po' più buie, ahimè l'odore che passando non è affatto gradevole. Attenzione, come dice la grande Littizzetto, chi la fa l'aspetti. Dottor Gargiulo, grazie. Dottor Temporin, la saluto. Allora, mirtillo, soia rossa e zuppe, grazie per essere stati con noi. Grazie, è sempre un piacere, arrivederci. Grazie, ma non è solo il freddo, anche quando siamo un po' agitati è più facile che ci scappi la pipì. In linea con noi abbiamo il dottor Paolo Marzorati, medico, psicoterapeuta, esperto di medicina psicosomatica. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dottore, mi verrebbe da dire quando l'ansia stimola, no? Se così ci piace, insomma, ci sono persone a cui sudano le mani, altre che hanno bisogno di schiarirsi la voce, altre ancora a cui viene il mal di pancia, altre sì, a cui scappa la pipì, no? La psiche condiziona il soma. In effetti è proprio così. E il nostro corpo esprime le emozioni in modo, diciamo, molto vario e complesso, e sono proprio la nostra storia personale, la nostra sensibilità e a volte anche la nostra affettività a costruire questo modo unico di comunicare, che è la nostra espressività corporea. E lo stimolo ad urinare, a volte effettivamente irrefrenabile, e può segnalare un bisogno di liberarsi di una tensione emotiva o a volte di una responsabilità che può essere troppo pressante. Non dimentichiamoci che comunque fare pipì è spesso da una sensazione di sollievo e di piacere, sì, e quindi di liberazione positiva. Allo stesso tempo però questo sintomo può avere anche, diciamo così, contenere un ricordo della nostra impossibilità di controllare tutto, no? Quindi della difficoltà di lasciarsi andare, di accettare che la vita accade e le cose avvengono. Quindi ricorda anche a livello inconscio che forse dobbiamo riuscire ad andare con un po' più di naturalezza e di vivere con piacere le cose che facciamo senza troppo preoccuparci. Accidenti che vento! Senti, ho bevuto troppo! Devo fare la pipì! Stai ancora facendo pipì! Smettila, basta! Mi hai sentito? Basta, smettila! Vuoi alla cadenza la città? Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Eccola! Prendimi di passaggio, persona! Calmo, stai calmo, è pipì, è pipì, è pipì! Non aver paura. Ma mago, mago, aiuto pure, guarda, dopo un braccio! Ma fanno schifo proprio il nostro paese, fanno schifo proprio! Ma lo smetti! Già, non si lavano, ma vuoi trovare, prego, un balcone, prego, mamma mia, una malattia, sì! Che una malattia, si sicura, stai calmo, però, stai calmo! Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà! Eddie si becca tutte le ragazze e non porta il pallolino. Dovrei provare anch'io questa faccenda del vasetto. Se devi far pipì, salti su e giù, ma a volte non funziona neppure con la gru. Allora provi a saltare un'altra volta, è solo questo che conta. Abbiamo ripreso il passo con dei brevi estratti dal Piccolo Diavolo, Non ci resta che piangere, Senti chi parla due. In linea abbiamo il dottor Paolo Marzorati. Dottore, se il bambino torna a fare pipì a letto in un'età in cui aveva anche già smesso e quindi era assolutamente autonomo, non bagnava più il letto, può essere una richiesta di attenzione, può attraversare un periodo delicato, può esserci qualche, se vogliamo, una causa un po' psicologica, tra virgolette? In genere diciamo che comunque fare le pipì a letto anche in bambini non piccolissimi, diciamo fino a 7, 8, anche 9 anni, occasionalmente è una condizione piuttosto comune. Sì. E quindi non deve generare allarmismi o particolare preoccupazione. Si parla, diciamo, di enuresi vere e proprie, quindi di pipì a letto con aspetto disagiante, quando questo si verifica per almeno 3 mesi e per almeno 2 volte a settimana, quindi sì, una condizione molto più rara. È ovvio che lievi e stress emotivi possono, in bambini particolarmente sensibili, manifestarsi anche con questa modalità, che in alcune situazioni potremmo anche vederla come una sorta di pianto basso, no? Come una piccola lacrimazione, sì, appartenente, diciamo, alla dimensione inconscia, cioè viene durante la notte, quando non c'è il controllo cosciente e quando forse il bimbo si sente un po' più libero di esprimere atteggiamenti magari di aggressività un po' repressa o di paura che forse non riesce a esprimere durante il giorno. Durante il giorno, perché a volte non se ne rende neanche conto. Il suo consiglio, dottor Marzorati, in questi casi? Allora, innanzitutto direi ai genitori di non preoccuparsi troppo se è occasionale, non colpevolizzare mai il bambino, cercare sì, anzi di comprendere il momento psicologico che vive, magari anche sentendo gli insegnanti o le maestre d'asilo. Sì. E nel caso, se magari c'è un po' di maretta in famiglia, ricreare un ambiente familiare un po' sereno in cui si favorisca l'espressività del bambino. E anche magari, ecco, direi i nostri bimbi sono sempre molto pieni di impegni e di responsabilità già da piccolini, magari non riempire la rallentare. Giornata con troppe cose, lasciargli un po' di tempo libero. Mi trovo assolutamente d'accordo. Un po' di pressione e impegni il bimbo le vive anche come un aspetto d'ansia e fatica. Dottor Marzorati, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. La saluto e saluto anche il dottor Alberto Villani, che è primario dell'unità operativa complessa di pediatria generale all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Buongiorno dottore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora dottore, lei come pediatra, come affronta il problema dell'enuresi notturna? Ma guardi, ho seguito con molta attenzione quanto detto dal collega prima e mi sembrano tutti consigli giusti e mirati. Diciamo che c'è una posizione che può essere diversificata se il bambino continua a fare pipì, quindi è un qualcosa che fa abitualmente, ossia l'enuresi primaria, oppure se c'è l'enuresi secondaria. Secondaria è quando il bambino, dopo aver conquistato il controllo degli sfinteri, quindi il non fare la pipì quando dorme, riprende dopo un periodo a farla. Quindi sì, sono due situazioni diverse. La prima normalmente ha una causa che è diciamo da ricercarsi nella familiarità, ovvero molto spesso questi bambini hanno in famiglia o il papà o la mamma o qualcuno che faceva la pipì a letto anche quando era un po' capita più nelle migliori famiglie, dottor Villani. Capita ovunque e le dico che se si facesse più attenzione, lo si chiedesse più frequentemente, probabilmente i numeri sarebbero ancora maggiori rispetto a quelli che si hanno. Quindi è un fenomeno veramente molto molto diffuso, quantomeno come fatto occasionale, come fatto continuativo forse è diciamo più marginato. Se invece il fenomeno insorge secondariamente, allora lì ecco bisogna fare attenzione a considerare quanto già detto prima dal dottor Marzorati, ma anche a non trascurare l'evenienza che possa esserci invece una causa organica. Allora in quel caso magari interessarsene, cercare di capire e di fare una diagnosi di esclusione. Peraltro sono situazioni rarissime, ma è giusto interessarsene. Dottor Villani, è arrivato il momento di fare un attimino di pausa. Veloce veloce, lei stia lì, noi ci sentiamo subito dopo. Eccoci, siamo tornati insieme in linea, ci ha aspettato il dottor Villani, adesso andiamo subito da Moira, ci chiama da Rovigo. Buongiorno Moira. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ci racconti? Io ho un problema con la mia bambina, ha 4 anni, gli ho tolto il pannolino molto presto, ha voluto lei, è stata bravissima, solo che lei non riesce a trattenermi la pipì, nel senso, lei va a fare la pipì in bagno, dopo un paio di minuti che ha terminato di fare la pipì, che è rimasta seduta anche nel water perché vengono giù tutte le goccine, così, e dopo nemmeno un minuto o due lei già perde altre goccine. Dottor, e questo sempre. Dottor Villani, che cosa può essere? Ma ecco, in questo caso, sincerarsi, ma questo già sarà stato fatto dal pediatra curante, che non ci sia una piccola infezioncina delle vie urinarie terminali. E poi quello che c'è da fare è semplicemente proprio fare una educazione al controllo vescicale, e in questo ci sono tutta una serie di consigli che vengono normalmente dati e che rappresentano proprio la via migliore per risolvere il problema. Quindi proprio l'educazione a trattenere la pipì, quindi a un maggior controllo della vescica, senza drammatizzarlo, senza rimproverare la bambina, ma questo è quello che va fatto, cioè va insegnato a riempire la vescica bene prima di andare a fare pipì. Sì, senta dottore, prima di salutarla, noi raccomandiamo sempre di bere, di assumere liquidi eccetera. Un bambino che a volte si dimentica di bere, soprattutto se, come si dimentica di andare a fare pipì se è preso nei suoi giochi e in tutt'altre faccende affaccendato, ci dà un'indicazione di quanto deve bere un bambino? Un genitore deve, è giusto che controlli la quantità di liquidi che assume un piccolino? Questo senz'altro, innanzitutto il liquido che va privilegiato è l'acqua, proprio l'acqua è sicuramente il liquido più fisiologico e migliore per il bambino. È chiaro che questo varia in rapporto all'età, sì, e quindi quello che può essere detto, che grosso modo quello che può essere consigliato è far sì che un bambino, diciamo un bambino sui 2-3 anni beva nell'arco della giornata circa 1 litro di liquidi, un bambino più grande ne può arrivare a prendere anche un paio di litri di liquidi. Dottore, molto spesso i bambini, dicevo, si dimenticano di fare pipì. Non... Qual è un messaggio? Lei come insegnerebbe ad un bambino a fare pipì e ad assecondare anche questo stimolo? Guardi, lei ha centrato uno dei problemi paradossalmente. Ogni tanto banali, sa che mi capita. Ma più importante, ovvero talvolta noi pediatri trascuriamo quanto sia importante anche favorire nei bambini attraverso i genitori l'educazione a regolare le proprie funzioni biologiche, quindi non solo il fare pipì, ma il fare la cacca, il dormire, l'alimentarsi certo. In maniera corretta, anche quello è un qualcosa che va a cui il bambino va educato, quindi è bene che il bambino nell'arco della giornata almeno 3 o 4 volte faccia pipì. Ci sono quelli che lo riescono a fare naturalmente e quelli a cui in qualche modo va ricordato di farlo, però è molto importante farlo, cioè il controllo della minzione, cioè di quante volte un bambino fa pipì, rientra tra le cose che un genitore deve verificare, quindi come il papà o la mamma si preoccuperebbero molto di un bambino che ha sempre tosse o che non fa la cacca, deve controllare anche che faccia la pipì, quindi almeno in 3-4 momenti della giornata che possono essere standardizzati, può essere prima di uscire la mattina, prima di andare a scuola, il dopo pranzo e prima di andare a letto, quindi almeno in queste 3 occasioni essere sicuri che ci siano state 3 menzioni. Dottor Villani, grazie, le auguro buona giornata. Grazie e buona giornata anche a lei. Ma se è vero che per molti fare pipì è semplice, mi verrebbe dire quasi come bere un bicchiere d'acqua, sono in aumento le persone che vivono la cosa in modo un pochino più problematico. Allora ditemi se vi riconoscete in uno di questi sintomi. Ti capita di dover correre al bagno per un impellente bisogno di fare pipì? Riesci a trattenerla? Devi alzarti nel cuore della notte? Avverti dolore o bruciore durante la minzione? Hai difficoltà ad iniziare ad urinare nonostante lo stimolo sia forte? Com'è il flusso? Continuo o a scatti? Regolare o lento? Hai notato negli ultimi mesi delle perdite di urina? Dopo aver fatto pipì, avverti una sensazione di peso, come di svuotamento incompleto? È in linea con noi il professor Roberto Carone, che è direttore della struttura complessa di neurourologia dell'ospedale CTO Maria Adelaide di Torino e presidente della Fondazione Italiana Continenza. Professore, buongiorno e bentornato. Eccomi, bentrovata. Eccomi. Allora, senta professore, quando la pipì inizia a darci qualche problema, noi donne generalmente pensiamo alla cistite, gli uomini pensano alla prostata. Io forse la faccio troppo semplice, ma il mio invito è: diamo un messaggio per il pubblico maschile e uno per quello femminile. Chi si riconosce in uno di questi problemi che abbiamo raccolto nella nostra scheda, cosa deve pensare e soprattutto cosa deve fare, professore? Sì, giustamente, perché si fa riferimento a una maggiore frequenza nel sesso femminile, i disturbi principali sono legati a un cattivo controllo della vescica fino ad arrivare all'incontinenza. Nel sesso maschile invece il contrario, è prevalente il disturbo alla capacità di svuotare adeguatamente la vescica e quindi giustamente si pensa a problemi di natura prostatica. Ecco, ma noi donne spesso, me lo scrivono anche gli ascoltatori, come se io non lo sapessi, un ascoltatore dice: voi donne dovete sempre fermarvi per andare in bagno. Un altro ascoltatore mi dice: la dimostrazione che le donne fanno sempre pipì è la fila ai bagni degli autogrill, dei ristoranti, c'è sempre un assembramento di donne, pochi gli uomini. Dottore, è vero? Certo, questo è verissimo. Pensavo che lei stesse un po' dalla mia, invece no. No, ma è vero, ma io ascoltavo prima quando parlavate di bambini, è vero che quando c'è un disturbo funzionale occorre tirare in ballo la psiche, cioè gli aspetti psicologici, questo è verissimo, vedi il bambino che fa la pipì a letto, però molto spesso probabilmente la psiche non c'entra niente ed è proprio un disturbo d'organo, sì. La vescica della donna tiene di meno perché va più incontro a quella che si chiama un'iperattività del muscolo della vescica, che è meno frequente nell'uomo, e questo spiega questo atteggiamento, questo comportamento al femminile. Anche perché poi noi in bagno di solito andiamo accompagnate, ci si incipria al naso, si fanno due chiacchiere, diventa una cosa, poi ci si lava le mani, insomma diventa un'occasione di socializzazione. Intanto abbiamo Gianluca da Roma, vediamo se che cosa ci racconta. Gianluca, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione, che l'ascolto sempre, Radio 24 e lei in particolare. Grazie. Niente, il mio problema, io ho 42 anni e vado in media 2 volte per notte al bagno, e se sento freddo, anche in questo periodo in modo particolare, devo andare al bagno anche molto spesso, nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti. E ho fatto diverse analisi, ho fatto il test del PSA, sono nei valori normali, ho fatto la flussometria, anche quella è normale, e mi dicono che sono forse particolarmente nervoso. Però questa cosa mi preoccupa un po', ecco, è anche seccante, immagino, anche per chi dorme accanto a lei, Gianluca, perché quando vi svegliate, noi donne quando ci svegliamo facciamo pianino, sì. Pianino. Voi accendete la luce, inciampate sul... Professor Carone, perché Gianluca, e poi è fastidioso perché si rompe il sonno, perché? Ma una volta esclusa una causa patologica, organica, che nel caso specifico potrebbe essere semplicemente un'infiammazione della prostata, visto la giovane età della persona che ci interpella, una volta esclusa questa, è possibile pensare ad una tensione muscolare del pavimento pelvico, che è una condizione molto frequente, soprattutto nel sesso femminile, ma possibile anche nel sesso maschile. Quindi come esiste il torcicollo, quindi una tensione muscolare a quel livello, può esistere una tensione muscolare anche a livello dei muscoli del pavimento pelvico, che possono sostenere i disturbi che vengono così descritti bene. Lei ha parlato di pavimento pelvico, professor Carone, e ci sono proprio c'è una ginnastica specifica che aiuta le donne, ma in un certo senso può aiutare anche gli uomini, soprattutto aiuta le donne in momenti particolari della vita in cui il problema, magari il trattenere l'urina, diventa un pochino più difficile. Penso alla gravidanza, penso alla menopausa. Se andate su internet troverete tantissimi siti che vi suggeriscono gli esercizi di per il pavimento pelvico, e professor Carone, in pratica basano un po', è come se uno provasse a trattenere la pipì, no? Quando vogliamo rinforzare il pavimento pelvico, sì. Nel caso dell'ascoltatore dobbiamo agire in senso opposto, cioè insegnare a rilassare questa muscolatura. Io vi volevo suggerire il sito www.contenuti-web.com, perché ci sono degli esercizi sia per le donne che per gli uomini, perché prontamente un ascoltatore mi scrive: ma gli esercizi per il pavimento pelvico servono e sono da fare solo alle donne. Invece, professor Carone, non ci siamo sbagliati. No. Assolutamente. Anche gli uomini possono farla, come nel caso del nostro ascoltatore, che distendendo questi muscoli potrebbe evitare di alzarsi la notte. Professore. Quindi un programma riabilitativo molto semplice, a cui la persona può essere addestrata, sia nel caso in cui ci sia incontinenza, sarà un programma che tende a rinforzare questa muscolatura, sia nei casi come questi descritti, un programma riabilitativo che tende invece a imparare a rilassare questa muscolatura. Stefano ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno. Siamo anche qua. La premessa, vi ascolto spesso e complimenti anche da parte mia. Grazie Stefano. Vengo al dunque, io ho 48 anni e sempre praticamente, indipendentemente dal periodo invernale dove magari ho uno stimolo maggiore a urinare, sempre comunque il getto è molto molto lento e la sensazione a fine dell'emissione che non sia completamente svuotata c'è sempre. Insomma è fastidioso, perché prima che fare pipì è una cosa piacevole, professor Carone, c'è proprio liberatoria, però se rimani lì con l'idea che dovresti farne ancora un po' e non hai questa sensazione di mancato svuotamento, uno rimane infastidito, come mai? Ma nel caso specifico del signore, in considerazione della sua giovane età e del fatto che lamenta questi disturbi da molti anni, io escluderei questa benedetta prostata, che quando non sappiamo spiegare un disturbo facciamo riferimento sempre o della prostata o della suocera. Quindi io assolutamente escluderei un problema prostatico alla sua età. Probabilmente, questa è una condizione abbastanza frequente, ci sono delle situazioni congenite in cui il collo della vescica fa fatica ad aprirsi e quindi permettere un facile svuotamento. Professor Carone, io la ringrazio davvero per essere stato con noi. La saluto, ripeto il sito per andare a imparare a fare gli esercizi per il pavimento pelvico, per rilassarlo, per fortificarlo. Io vi suggerisco questo, ce ne sono diversi, comunque contenuti-web.com. Professore, grazie, buona giornata anche a lei.